Gogo, il cucciolo che abbaia come un vero cagnolino, sinceramente no. Ecco, Gogo no. Dopodiché cito solo per chiudere la Gazzetta dello Sport, perché vabbè, c'è tantissime pagine su Enzo Berzot, scomparso il grande Enzo Berzot, il CT Mundial dell'82 in Spagna, ma ormai è scelto per l'Inter, pare scelto, tutto dice Leo. Leonardo sarà al 90% il nuovo allenatore dell'Inter. Io da milanista davvero questa non la mando molto giù. Comunque, il GR, votate il sondaggio Case Popolare ai Rom anche a Milano. Che ne pensate? Tra poco. 24 mattino. L'intervista. Alle 8:20 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Oggi ospitiamo il senatore Stefano Pedica dell'Italia dei Valori. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Senta, oggi Giannelli, che fa la vignetta consueta di prima pagina del Corriere, mette il ministro Bondi che suona al pianoforte, concerto di Natale, grande contributo alla cultura. Sandro Bondi, pianista. E però, che ride, Pedica, perché ride? Perché lei ha immortalato. L'ho visto. Lei l'ha visto, ha visto il concerto. Lei ha immortalato il pianista, ma di un altro tipo, quelli che votano alla Camera anche per altri, o al Senato, il ministro Bondi. Cioè, che ha fatto? Sì, intanto va denunciato questo fatto, è un atto illegale, c'è una persona che vota per un altro e falsifica il voto e falsifica la votazione in generale. Noi abbiamo chiesto, vedendolo più volte, ma più volte l'abbiamo richiamato non facendo il suo nome, dicendo al presidente di turno di controllare nei banchi, non solo dei senatori, cioè dei parlamentari, ma anche dei banchi del governo, che c'era qualche persona che votava per un altro. Lo abbiamo segnalato 1, 2, 3 volte e poi abbiamo dato la prova provata. Che ha fatto? Lei ha tirato fuori un telefonino e l'ha ripreso? Guardi, oramai i telefonini fanno parte appunto della realtà, da dove la si nasconde. Fortunatamente ci sono questi strumenti tecnologici che nel giro di un minuto, messi in rete, e fanno vedere qual è la verità. E la verità è che, appunto, che un ministro della Repubblica ha dato il massimo del minimo che poteva rappresentare come ministro della Repubblica, cioè addirittura votare per un altro collega. Questo è perché poi non su un decreto, appunto, un disegno di legge piccolo, ma appunto stiamo parlando della legge Gelmini. Che per quello che riguarda l'Italia dei Valori, appunto, toglie invece di dare ai giovani, alla ricerca, vabbè, al futuro. E Bondi che vi ha detto? Vi ha detto qualcosa? No? Bondi, come una persona che è stata beccata con il dito nella marmellata, non si è mosso dal suo posto, ha chinato la testa e stava lì fermo. Vabbè, ma adesso ce l'avete, sembra sparare a Bondi ormai, come dire, in questo momento. Sì, no, non volevo dire questo. Dice adesso tutti contro Bondi, adesso è in un momento. No, ma Bondi non è Bondi, sì, Bondi è una persona che forse, appunto, nella sua ingenuità crede di avere tutto a sua disposizione, forse appunto è come il suo presidente del consiglio, crede di avere la possibilità di fare tutto e il contrario di tutto. E noi gli abbiamo detto, un'azione illegale, e come illegale appunto è stata la gestione della presidente di turno Rosy Mauro. Senatore, le devo far sentire un audio, perché ieri è successa una questione di emendamenti contestati. Allora la presidente Rosy Mauro, era presidente del Senato in quel momento, ha detto no, vado avanti con le votazioni. Che è successo? Sentiamo un po' un audio. Ha messo in votazione in questo modo gli emendamenti. 6.307, parere contrario. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Non è approvato. 6.24, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, non è approvato. 6.308, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, non è approvato. Per cortesia, la Presidenza si è espressa. Vado avanti con le votazioni. Vado avanti. Rispetto anche per la Presidenza. Io vi ho dato una risposta. Rispetto per la Presidenza. Vi ho dato una risposta, vergogna. 6.26. E vabbè, poi si è continuato. Tra l'altro c'è il giallo perché avrebbe approvato degli emendamenti dell'opposizione. Vabbè, ma al di là di questo giallo, che poi è stato chiarito, è stato. Lei sul Corriere della Sera, Rosy Mauro, dice no, ho detto chiaramente non approvato agli emendamenti che non andavano approvati. Sta di fatto che ha detto volavano carte, libri, parole grosse. senatori che aizzavano, senatori che saltellavano, senatori che urlavano. Ma chi è senatore Pedica? Cioè, questo è il Senato italiano? Guardi, noi appunto avendo visto la presidente Rosimauro in preda a delirio, ma è delirio di onnipotenza, un'altra persona con il delirio di onnipotenza, noi gli abbiamo detto con il regolamento alla mano, gli abbiamo detto devi sospendere, perché noi abbiamo chiesto un quesito appunto legittimo, c'era un emendamento che bocciava un comma di un articolo e un altro emendamento invece che voleva riformulare lo stesso articolo di quel comma, e sì, abbiamo detto c'è un'incongruenza, accantoniamo quelli. E invece lei ha detto lei ha detto ho avvisato il presidente Schifani, per il momento continuavo a votare ed è successo quello che è successo. Ma lei doveva accantonare, una presidente che capisce appunto e tiene in mano l'aula diceva si accantona quell'articolo e ce l'è andata avanti e ha cominciato a sgranare gli occhi ad andare avanti. Noi gli abbiamo fatto capire, e anche una parte della destra ha fatto capire, che era il caso di sospendere visto che c'era creato appunto quel pandemonio, e invece l'è andata avanti. Però senatore, però Rosimauro ha detto, quando ho detto quella parola vergogna è perché sono stata insultata da un collega che non sono riuscito a chiarire, cioè appunto ha detto senatore, ci sono delle foto, volavano carte, libri, senatori che urlavano, cioè non è un bello spettacolo, insomma è proprio in questo momento. Ma non poi... certo, ma non è uno spettacolo appunto vedere una presidente che di imperi appunto va avanti dicendo appunto emendamento, e purtroppo nella sua incapacità ha fatto anche votare degli emendamenti del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori. Perciò vuol dire una persona che non sa tenere, non è che gli insulti appunto li abbiamo dati in un modo gratuito, noi non l'abbiamo insultata, abbiamo detto presidente la deve smettere, si di deve fare fermare, questa arroganza, si deve fermare, di non tenere appunto l'aula e di sospendere. Allora abbiamo chiesto la sospensione e addirittura questa è stata la controrisposta, andare avanti, cioè diceva un'eresia dietro l'altra, e purtroppo appunto qualcuno ha anche votato questa eresia. Ora appunto si è creato un vulnus, perché non è che noi abbiamo fatto ritirare come se niente fosse appunto quelle votazioni, ci sarà un dibattito, adesso sono state accantonate e poi ci sarà un dibattito oggi. Io credo appunto che anche oggi o il presidente Schifani sarà presente tutto il giorno senza stare nella sua comoda scrivania, altrimenti vediamo se si riuscirà ad approvare certo, oggi. Non se ne viene così. Senta, nel salutarla c'è qualcuno che ci dice ma effettivamente avevano messo quei costosi strumenti per controllare gli eventuali, contrastare i pianisti, ma credo alla Camera e non al Senato. Questo solo alla Camera, esatto. Eccolo. Quello è l'inghippo. Basta schiacciare il pulsante che resta acceso, perché è una cosa vergognosa. Si possono accendere 20, non uno, perché alla Camera almeno prima, nei tempi passati, si doveva tenere il dito premuto sul pulsante. Al Senato basta schiacciarlo e resta acceso per tutta la votazione. Perché è una cosa, una vergogna che noi abbiamo sollevato già dall'inizio della legislatura. Più che un pianista bisogna essere un orchestrale per schiacciarne 20, però. Esatto. Mani e piedi bisogna usare. Vabbè, guardi, lì si vede di tutto. Che non è un bel segnale. La ringrazio, buona giornata ovviamente. Il senatore Stefano Pedica dell'Italia dei Valori ci ha raccontato un po' come ha immortalato Bondi, che votava anche credo per il collega Sacconi, almeno così dicono i giornali, insomma è seduto di posto a fianco, è immortalato con un telefonino. E vabbè, noi ci fermiamo, pubblicità e meteo, e poi parliamo nel nostro sondaggio di quello che è successo a Milano. Le case date per giudizio del Tribunale di Civile di Milano ai Rom, case popolari, contrari erano il ministro Maroni, il sindaco Moratti, e il Tribunale Civile ha deciso così, le case popolari, quelle case vanno anche ai Rom. 20 case, ma il caso politico si è creato. Che ne pensate? Tra poco, 800 24 00 24. 24 mattino. Alle 8:33 minuti siamo pronti al nostro sondaggio, parliamo della vicenda che ha coinvolto il Comune di Milano, ma è una vicenda che è esplosa a livello politico, vale a dire la decisione del Tribunale di Milano di dire anche ai Rom vanno le case popolari, devono andare le case popolari che il Comune di Milano aveva promesso a suo tempo e poi dopo rimangiandosi di fatto la parola. Siete d'accordo? Questo è il tema del nostro sondaggio. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Le case popolari anche ai Rom, così ha deciso il Tribunale di Milano. Ieri avevamo anche il vice sindaco De Corato che ha detto una decisione sbagliata. Il sindaco di Milano, Moratti, Letizia Moratti, ha detto noi siamo eletti e dobbiamo rendere conto ai milanesi, mentre i magistrati no. lo ha fatto con il suo solito tono pacato, ma certo una frase molto molto forte per contestare questa decisione della magistratura. Ne vogliamo parlare intanto con Valerio Nida, che è stato presidente della Corte Costituzionale, è stato candidato anche alle primarie a Milano. Buongiorno professor Nida. E Matteo Salvini, eurodeputato della Lega, buongiorno. Che ieri, buongiorno a tutti. Ieri l'ho vista davanti al tribunale che snocciolava una serie di nomi. Che nomi erano, Salvini? No? Nomi di italiani che... No, ma nomi di italiani e stranieri, di quelle 18.236 persone che in questa mattinata di fine dicembre sono in lista d'attesa perché ne hanno diritto per avere una casa popolare e sarebbero scavalcate da questa decina di famiglie rom. Scavalcate, anche se questa visione so che è contestata. Voglio salutare l'avvocato Alberto Guariso, che è presidente dell'associazione Avvocati per Niente, uno degli avvocati che ha difeso questi rom di rumeni, credo, di nazionalità. Buongiorno avvocato Guariso. Buongiorno a lei. Dice scavalcati Salvini. Intanto professor Onida, lei che ne pensa? Perché l'accusa è il comune di Milano, il ministro, il prefetto avevano inizialmente promesso, in cambio dello sgombero di un cioè abbandonate un campo nomadi e vi diamo la casa, e poi hanno cambiato idea. Questo è il punto, è il vulnus, professore? Sì, ma chiariamo, non è che hanno solo promesso, qua c'è stato l'idea di sgomberare un campo che è un campo autorizzato. Quindi bisognava assicurare una soluzione abitativa a chi esce dal campo, e era stato posto in atto tutta una procedura che è durata mesi per arrivare a individuare per 25 famiglie la soluzione dell'assegnazione ad organizzazioni del terzo settore, come la Casa della Carità, di alcuni appartamenti attualmente inagibili e sfitti, inagibili perché bisognosi di ristrutturazione, appartenenti all'ALER, che erano stati con una delibera unanime della giunta regionale sottratti alla normale uso delle case popolari. Quindi qui non c'è nessuna graduatoria che venga scavalcata. Ci sono degli alloggi che, secondo i regolamenti in vigore, sono stati destinati ad emergenze sociali. Ora è evidente che è un'emergenza sociale quella di famiglie che vengono autoritativamente allontanate dal campo, da un campo autorizzato, e a cui bisogna ovviamente offrire una soluzione abitativa. Certo, quindi intanto è stato tutto fatto, tutto deliberato, contratti firmati. Questa è la cosa grave, che dopo che per mesi si è lavorato per arrivare a questa soluzione, improvvisamente, per ragioni di tipo appunto discriminatorio, si è detto no, ai rom non si devono toccare le case popolari. Allora io vorrei, Salvini, lei era fatto un'intervista a Repubblica dicendo intanto non si dà patrimonio pubblico a dei ladri, questo più o meno l'ho letta così su Repubblica, leggo male? No, non era riferito agli abitanti di via Tribognano. Si dice che non si dà il patrimonio pubblico ai furbi. Ai furbi. Perché qui effettivamente non è che c'è uno. Cioè, questi appartamenti che erano destinati a questi rom, non è che vengono tolti dai graduatori. No. Qua giochiamo con le parole all'italiana, alla politica, come al solito. Qua facciamo nomi, cognomi, indirizzi. Qua stiamo parlando dei quartieri Giambellino, Baggio, Gratosoglio e Corvetto, con degli appartamenti che erano in graduatoria, che erano perfettamente abitabili, in alcuni casi abitati fino a pochi mesi fa, e di 5 o 6 locali che farebbero la felicità di ciascuna delle 18.000 famiglie in lista d'attesa, che sono stati tolti da questa graduatoria perché ci hanno spiegato che venivano destinati ad emergenze sociali. Punto. E se uno mi dice diamo degli appartamenti per emergenze sociali, io ovviamente dico sì. Nessuno ha mai parlato di rom. Evidentemente qualcuno anche nel centrodestra, senza avvisare la Lega, aveva fatto un percorso a cui non era autorizzato sottoscrivendo questi contratti con i rom. Nel momento in cui, come Lega in Comune, come ministro Maroni, siamo venuti a conoscenza che l'emergenza sociale erano solo famiglie rom, abbiamo detto no. Fermi. Quindi, tanto che le case, visto che siamo sotto Natale, nessuna di queste persone sarebbe finita sotto un ponte, perché mettendosi a cercare sul terreno privato, quindi grazie a privati, alla Fondazione Policlinico, al Pio Albergo Trivulzio, le case per queste famiglie erano e sono state trovate, ma non del patrimonio pubblico, perché è un insulto a quelli che sono in coda. Senta, qualcuno stia giocando politicamente su sti rom per evitare di risolvere il problema. Il giudice Roberto Bicchi, quello della sentenza, ha detto che c'era un fare discriminatorio in questa scelta del comune, comunque del ministro, di dire prima si danno, poi no, ci siamo accorti appunto che vanno i rom, allora no. Questo effettivamente, questo passo del gambero un pochino va spiegato, cioè questo passo del gambero perché sono rom? Ma anche se fossero stati bresciani. Io non posso prendere 25 case del patrimonio pubblico pagato da tutti e decidere di destinarle a 25 milanisti, bresciani, buddisti o rom. Non stanno in cielo né in terra. I rom, se ne hanno i requisiti, stanno in coda esattamente come tutti gli altri e la casa esattamente come a tutti gli altri verrà assegnata. Cioè, per il fatto di essere rom non volete che vengano privilegiati, no? Assolutamente, si mettono in coda e hanno gli stessi diritti di tutti degli gli altri. Professor Onida, questo le chiedo anche da giurista. Come... perché chi è che vuole sgomberare il campo? Chi è che vuole allontanare queste famiglie dal loro campo? La delibera regionale è una delibera assunta all'unanimità, quindi sicuramente anche i membri regionali della Lega hanno partecipato, che destinavano questi 25 appartamenti all'emergenza sociale. Allora ditemi se non è un'emergenza sociale quella di dover ospitare famiglie che vengono autoritativamente allontanate da un campo. È un'emergenza sociale, quindi tutti sapevano che era così, sono stati firmati i contratti, non è che possono svegliarsi improvvisamente e scoprire che avevano sbagliato, non possono. Tra l'altro che le chiedo anche, detto che intanto il 75% dei nostri ascoltatori dice no, le case popolari anche i rom, non siamo d'accordo, ma io capisco che possa anche, insomma, anche sull'onda dell'emotività possa portare a questo voto. Comunque votate su Radio24.it, le chiedo, professor Onida, che ne pensa del sindaco Moratti, ma anche la Lega dice... si facciano eleggere i giudici, magari rispondono anche a quello che sono le idee dei cittadini. Ma figurarsi, i giudici non sono mica là per fare la volontà della maggioranza del momento, i giudici sono là per applicare la legge, per applicare il diritto, per riconoscere i diritti fondamentali di tutti. E quindi se rispondessero alla maggioranza non assolverebbero più al loro compito costituzionalmente previsto. Questo anche se in alcuni paesi, come sa, sono elettivi. No, giudici elettivi, guardi, sono molto pochi giudici elettivi, comunque soltanto nella tradizione americana, nordamericana. Sì. Ma in ogni caso il compito del giudice è quello di applicare la legge, non di fare la volontà della maggioranza. La volontà della maggioranza la fa il Parlamento, la fanno i governi, la fanno gli organi politici. Gli organi giudiziari devono garantire a tutti, in condizioni di uguaglianza, i loro diritti. Io intanto voglio sentire avvocato Alberto Guarigio, l'abbiamo fatto ascoltare, lei difende questi rom che quando in teoria potrebbero entrare in possesso a questo punto di questa casa, forte di questo pronunciamento del giudice? Il giudice ha detto che devono entrare in queste case entro il 12 gennaio, l'ordinanza è esecutiva, il comune la deve rispettare, per chi non rispetta queste ordinanze sono previste anche sanzioni penali. Ma voglio però, scusami, se mi permette solo chiarire questo punto rispetto alla tesi che veniva enunciata prima dall'onorevole Salvini, queste case non sarebbero comunque entrate in graduatoria, quindi né a Bresciani né perché la giunta regionale aveva deciso espressamente che andavano tolte utilizzando una norma della legge regionale votata dall'attuale maggioranza che dice il 5% delle case vanno usate per situazioni di emergenza. Sì. Nel giudizio il comune, per far valere la propria discrezionalità, ha prodotto un pacchetto di centinaia e centinaia di casi nei quali il comune stesso aveva fatto uso di questa discrezionalità per risolvere situazioni di emergenza. Però su questo Salvini è stato chiaro, cioè dice diamo delle case tot percentuale per situazioni di emergenza sociale, va bene, io dico di sì, quando però scopro che alla fine questo servono per i rom come se fossero i buddisti o 15, allora non mi sta più bene. Prima cosa, è evidentissimo a tutti che questo non si può fare perché appunto non si possono escludere da determinati progetti solo in quanto rom determinate persone, è esattamente quello che vietano le norme sulla discriminazione etnica. Ma in più c'è anche da dire che è pacifico che questa cosa era notissima a chi ha votato quella delibera, tant'è vero che in quella delibera c'è anche scritto il comune disporrà di fondi per la ristrutturazione delle case, ma di quali fondi? Di quelli previsti dal piano per l'emergenza rom, cioè questi soldi per la ristrutturazione di queste case che sono lì indicate negli atti sono soldi che il ministro Maroni ha stanziato per i rom, non si possono utilizzare per il parchetto di Milano o per la Salerno-Reggio Calabria perché sono stanziati per i rom. Adesso si dice non si possono dare vantaggi ai rom, ma l'ha stabilito il piano Maroni che ha chiamato tutta la vicenda emergenza rom. Ha detto che i rom sono una situazione di emergenza, ha stanziato dei soldi, cioè, quindi questi soldi c'è un passo vanno alla ristrutturazione delle case che poi tornano nel patrimonio pubblico. L'onorevole Salvini vuol dare questi soldi ai privati perché si sistemino le loro case, mi pare davvero una cosa curiosa. Non lo so, non credo ai privati, Salvini. Ha detto di sì, ha detto che li vuol dare ai privati. Salvini, Ma perdoni, l'avvocato fa l'avvocato, io faccio il consigliere comunale e conosco gli atti. Parliamo di via Forze Armate 179, avvocato. Vabbè, lei chi, sa dov'è, chi? Lei di qua, sa di quanti locali è. Stiamo parlando del nulla. Sa quanti padri separati passeranno il Natale dormendo in macchina o nel box? Non è un'emergenza sociale? Io come consigliere comunale pretendo di avere il diritto, visto che amministro la cosa pubblica, di decidere qual è l'emergenza sociale. Che il ministro Maroni, per la prima volta nella storia, abbia messo a disposizione del Comune di Milano dei soldi per risolvere l'emergenza Rom, sgomberare i campi abusivi e chiudere quelli cosiddetti regolari appoggiandosi ai privati, è assolutamente vero e i milanesi gliene rendono merito. Non ci sta scritto da nessuna parte, in nessun atto ufficiale, che delle case popolari sarebbero andate ai Rom. Punto. Mm. Voglio sentire il primo ascoltatore, Giorgio, 800 24 00 24. Giorgio, buongiorno. Pronto, buongiorno. Dica. Chiamo da Milano. No, sì. Volevo ricordare una cosa che purtroppo non è questione di essere razzisti, ma i Rom, bene o male, tutti sappiamo come producono il loro reddito. A me queste precisazioni, cioè non voglio essere razzisti, ma tutti sappiamo che fanno. Tutti sappiamo, lei quando avrà una visita a casa sua, mentre lei è assente, dei Rom. Speriamo di no, né a casa mia né a casa sua, Giorgio. A casa mia, ma a casa di nessuno, però purtroppo. Se lei consulta un qualsiasi persona delle forze dell'ordine, le dice come campano i Rom. Ma va bene, ma guardi, ieri il vice sindaco, quindi lei dice sulle questioni case, no, non si dà perché... Un'altra semplice puntualizzazione, come ricordava il suo interlocutore lì presente in studio, padri separati, tutta gente che comunque pagano le tasse, pagano l'IVA, Salvini, lavoro e producono qualcosa... I Rom, scusatemi, ma non mi sembra facciano niente di questo genere. Era l'onorevole Salvini della Lega. No, ma la sua posizione, Giorgio, è chiara. Ieri avevamo il vice sindaco Decorato che dice: guardate, dove arrivano quattro roulotte dei Rom, nel giro di qualche giorno i box vengono svaligiati. E io gli ho chiesto: ma allora lei sta dicendo che Rom uguale ladro? No. Questo lo dice lei. Io registro il fatto. Il traffico. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora è salita al 76% la percentuale di chi dice no, le case popolari anche i Rom, il caso di Milano, il tribunale di Milano. Io, Salvini, vorrei chiederle questo: quando effettivamente il professor Onida dice che il politico deve seguire un po' quello che è la maggioranza degli eletti, cioè i giudici non è che devono applicare quello che è il sentore popolare nella sua maggioranza delle posizioni, perché sennò con questo. E voi invece della Lega avete detto i giudici si facciano eleggere, così come anche il sindaco Moratti ha detto loro non sono eletti, è facile, no? Non seguire, noi dobbiamo dar conto ai milanesi mentre il giudice no. E ho capito, ma che c'entra, cioè, Salvini? Non è che uno deve seguire sempre quello che dice la maggior parte delle persone, se no... No, ma per carità di Dio, poi anche come Lega, se siamo esseri umani, facciamo cose giuste e facciamo cose sbagliate, quindi anche i giudici possono far bene e possono far male. Che applichino la legge o a volte la interpretino è lì da vedere. La cronaca dell'ultima settimana ci racconta delle scarcerazioni dei teppisti di Roma, ci racconta della sentenza della Corte Costituzionale che decide che un clandestino non può essere espulso se si dichiara povero, e a questo punto ci saranno migliaia di clandestini che fermati si dichiareranno poveri, e poi c'è questo giudice che non so se abbia mai frequentato un campo Rom, questo dottor Roberto Bichi, che io accompagnerei volentieri in qualche zona vicina ai campi Rom, che ha stabilito che costoro hanno dei diritti. A me piacerebbe Perché lei può, ed è opinabile, come tutte le sentenze sono criticabili o no, ma perché bisogna decidere che voglio dire, le scarcerazioni di Roma sono sbagliate, in punta di diritto, io non sto discutendo poi come opinione. Gli avvocati mi insegnano che in punta di diritto si può scegliere bianco o nero, come è il titolo della trasmissione. Che la legge spesso e volentieri non è applicata ma è interpretata. Lo stesso giudice avrebbe potuto decidere che i Rom non avevano diritti, che i teppisti di Roma stavano in galera e che i clandestini, anche se sono poveri, sono clandestini. Punto. Evidentemente c'è una piccola parte di giudici che cerca di fare politica senza i voti. Interessante. Su questo voglio il parere del professor Onida, ma prima due ascoltatrici, se sono sintetiche. Grazie. Sabrina da Roma, buongiorno. Salve, buongiorno. Io volevo dire che allora, a prescindere che la magistratura sta facendo di tutto per esasperare la situazione, e invece di fare integrazione in questo modo sarà sempre più esasperato appunto l'intolleranza verso gli zingari e verso comunque gli extracomunitari in genere. È una politica questa, a prescindere che la magistratura non dovrebbe far politica, quindi voglio dire, perché ha deciso che fa politica esatto, con le sentenze. Io penso che se si continua così, la magistratura farà diventare tutti gli italiani leghisti, perché veramente ci sarà sempre più. Beh, allora Salvini sarà contentissimo, grazie Salvini. Io infatti lo appoggio, guardi, mi creda, sono da Roma, sono di Salvini, arrivate fino a Roma e non nei palazzi come Lega. Valeria da Napoli, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Come Salvini, io, anche se sono napoletana, sono d'accordissimo con lui. Noi abbiamo dei problemi. Ma come? Anche Salvini, sì, anche da Napoli? Anche lui ha dei momenti di idiozia quando ha parlato con il famoso coro, certo. Però, sappiamo. Se mi permetta, quello che dico, abbiamo dei problemi più grossi, ci dobbiamo porre il problema dei Rom. Cioè, noi a Napoli abbiamo un problema grosso, tipo la spazzatura. Se non paghiamo la tassa sulla spazzatura, l'Equitalia ci pignora le case, le macchine, i figli. Io devo dare le case ai Rom. Ma stiamo scherzando, qua paghiamo le tasse, anche a Napoli c'è gente che paga le tasse, io sono un'impiegata a 1.000 euro al mese e devo vedere che danno le case ai Rom. Io pago un fitto, mi escono dagli occhi soldi. Insomma, dire non diamo perché guardare Rom. Non scherziamo. Va bene, grazie Valeria. Professor Onida, ha sentito, qui deve rispondere sulla questione sia giudici e la decisione politica. È il solito vizio italiano, è il solito vizio italiano, si pensa che il diritto sia un optional. La legge sia un optional, si può interpretare nel senso bianco o nel senso nero, è il solito vizio italiano. La legge è legge e qua c'è anche una legge europea. E la legge antidiscriminazione che è stata applicata dal giudice Bicchi è una legge di attuazione di una direttiva comunitaria che dice che non si può discriminare, che un atto il quale ponga in posizione di svantaggio una persona o un gruppo per ragioni etniche è un atto illegale. E in questo caso dire le case ci sono ma non si devono dare ai Rom è chiaramente una discriminazione e quindi contraria al diritto costituzionale, al diritto europeo, altro che magistratura che fa politica, la magistratura sta là per applicare il diritto e se siamo al punto che in Italia si considera legale discriminare le persone per ragioni etniche, siamo veramente messi male. Senta, ha sentito però anche gli ascoltatori, vede anche il risultato del sondaggio, molti che dicono ma la magistratura con queste decisioni, anche le scarcerazioni, la decisione della Corte Costituzionale, di cui voglio ricordare, lei è presidente emerito, su l'espulso, se è in stato di indigenza o povertà può rimanere e opporsi all'espulsione. Ma anche là è un grosso equivoco, perché la legge dice già che la prima volta che uno viene colpito d'ordine d'allontanamento e commette reato se si trattiene senza giustificato motivo. Poi però aggiunge che se per caso è controllato anche dopo ed è rimasto, in questo caso non c'era il giustificato motivo. E la Corte Costituzionale ha detto ma è incongruo. Il giustificato motivo deve sempre essere discriminante, non può non esserlo, perché se uno non ha nessun mezzo per allontanarsi dal territorio, non si può condannarlo. Tutto qua, è una sentenza assolutamente sacrosanta e ancora una volta attaccare queste sentenze, attaccare le decisioni dei giudici, e questo è fare cattiva politica. Salvini, ha sentito, entro il 12 queste case, che succede? Cioè voi che pensate di fare? Si dovrebbe fare ricorso da parte, credo, tra l'altro del prefetto dovrebbe fare ricorso perché lui è il commissario straordinario per i Rom, e se no noi come il 12 Lega, è tra 10 giorni, 20 giorni. Noi come Lega abbiamo invitato il sindaco a tirare dritto, anche perché, ripeto, delle case per queste famiglie sono state trovate grazie al cattivissimo ministro Maroni. Delle case in Milano, grazie a dei soggetti privati, sono state trovate. Per noi è come messaggio, in quest'anno abbiamo sgomberato 1 migliaio di appartamenti comunali occupati abusivamente. Stiamo cercando anche a Milano di far tornare il rispetto della legge di cui parla il professor Onida. Sarebbe un segnale pessimo che 25 case vadano nel nome di non si sa chi, non si sa che cosa, finissero a una categoria. L'avvocato, voglio concludere con l'avvocato Guariso. Senta, queste case, è vero ci sono altre case, il 12 che succede, pretendono le case a questo punto in nome della sentenza i vostri assistiti? Quanti sono intanto? Prima cosa, allora io suggerirei di leggere veramente l'ordinanza prima di dire i giudici fanno politica. Il giudice ha scritto: La cosa paradossale è che i ricorrenti, cioè i Rom, chiedono solo che vengano rispettate le decisioni che il comune e il prefetto avevano preso. E va bene, noi abbiamo scritto che chi ha vinto in questa causa è il comune, cioè il comune fino al settembre per le decisioni, quindi il giudice non travolge l'attività amministrativa, ma chiede solo che quell'attività amministrativa venga portata a esecuzione. Va bene, però ho sentito, adesso il sindaco adesso, Moratti ha cambiato idea evidentemente. Non può cambiare idea nel momento in cui ci spiega il giudice, io faccio la politica fa tutte le sue scelte nei quali nessuno può intromettersi da parte della magistratura, ma quando le fa e firma degli atti, come quando firma un contratto di assicurazione, di affitto, con qualunque cittadino. Attenzione, perché il vice sindaco Decorato ieri ci ha detto che non c'è alcun atto firmato, ma solo dichiarazioni. Vabbè, ma queste sono cose, cavilli che vivono. Sono firmati e stanno alla base della decisione. Seconda cosa, è scritto ancora nell'ordinanza e anche successo nelle udienze, il giudice ha chiesto, avete delle soluzioni alternative, sì. Ha rinviato apposta l'udienza per dar modo al comune di formulare in udienza delle proposte alternative, all'udienza successiva l'avvocato del comune è comparso e ha detto non abbiamo nessuna proposta alternativa. Quindi allora, mi dica va bene, siccome devo chiudere, il 12 ci saranno queste case secondo lei per i Rom? Devono assolutamente esserci perché le decisioni dei giudici vanno rispettate e una pubblica amministrazione non può dire non mi interessa devono la esserci. Decisione del giudice. Va bene, vi ringrazio. Matteo Salvini della Lega, professor Valerio Onida, presidente emerito della Corte Costituzionale, e l'avvocato Guariso per essere stati con noi, con Antonella Migliaccio in redazione, Peter Bescapè in regia. Che dire, dalla linea Oscar Giannino c'è il ministro Giorgia Meloni, si parla delle manifestazioni oggi, dei giovani, dell'università. Tra poco noi ci troviamo invece domattina 7:20.